storia. Ed è quello della resistenza. State vedendo uno striscione che dice Defend Rojava. E allora questa è la responsabilità a cui siamo chiamati in questo momento. Non possiamo pensare di difenderci in Italia senza tessere reti che abbraccino tutto il mondo, che stringano le nostre sorelle in cima alle montagne in cui resistono. E allora abbiamo detto armi chimiche, abbiamo detto bombardamenti, abbiamo detto carcere, torture, ma parliamo invece di cosa succede dal nostro lato, perché quello è il nemico. Le armi chimiche non hanno fiaccato la guerriglia, continua nelle montagne la resistenza. Le bombe di questi giorni continuano a incontrare l'ostinata resistenza delle YPG, delle YPG, di tutta la popolazione dell'amministrazione autonoma della Siria del Nord-Est. In Turchia, ieri, comunque, le donne sono scese in strada senza paura di fronte alla polizia del regime. In Iran continua anche l'attacco al Kurdistan. Jina Mahtamini, donna curda, la cui morte non è stata solamente un pianto di dolore, ma un grido di resistenza. E allora se Jin Jian Azadi risuona in queste piazze, non possiamo solo farci belle con questo slogan. Comporta una responsabilità, la responsabilità di unirci, la responsabilità di difendere anche noi le nostre compagne, perché oggi loro ci difendono. Perché se l'ISIS è stato sconfitto è grazie a loro, perché se c'è un fronte di resistenza contro uno dei fascismi più orribili di questa terra, ovvero quello turco, è grazie a loro. Allora ci stanno chiedendo aiuto, noi cosa rispondiamo? Perché è chiaro che loro non faranno neanche un passo indietro, ed è il momento per noi di farne uno avanti. Basta guerra sui nostri corpi, rivolta transfemminista in tutto il mondo, dalle montagne curde alle nostre città, dalla vita, libertà! Lascerò spazio alle parole di compagne internazionaliste